известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta. Di Stefano Pistolini. I view the stimulus plan as a bridge over troubled water. I think it's absolutely the right thing to do. And I'm a fiscal conservative. You know, I balanced the budget. I paid $600 billion down on the debt for the American people. I don't like deficit spending. He has no choice. The economy is contracting. He has to prop it up. You would have done this? Absolutely. E mica siamo nel 1995, la voce che avete ascoltato, seppure così potrebbe essere stata un po' smangiucchiata dalla memoria, ma comunque la si conosce anche dalle parti nostre, è quella di Bill Clinton, e in una giornata come quella di oggi, in cui anche sua moglie Hillary è ben al centro di questa puntata di Jefferson, ovvero i buoni, sani, vecchi coniugi Clinton. Ma non siamo nel 1995, siamo all'inizio del 2009, per la precisione siamo esattamente il 20 febbraio, ovvero un mese dopo che è preciso, è l'anniversario, il mesiversario, che Barack Obama assumeva la guida degli Stati Uniti d'America in qualità di 44esimo presidente. La intervista che avete appena ascoltato è andata in onda ieri, anzi questa mattina, Good Morning America, il quotidiano mattutino della ABC, e Clinton è stato molto generoso nei confronti del suo successore, gli ha dato praticamente un bel 10 dicendo che sta lavorando molto bene e che le cose che sta facendo in linea massima sono quelle che avrebbe fatto lui, è detto da uno insomma che ha un'ottima opinione di se stesso come Bill Clinton. Questa è decisamente una lode, mentre assai meno lodi naturalmente ha concesso a George W. Bush. Però ha dato anche un consiglio piuttosto, come dire, da esperto, no? Da espertone, da uno che ha occupato per 8 anni la Casa Bianca, al novellino, al pivello Barack Obama. Gli ha detto: fatti vedere più di buon umore, fatti vedere più speranzoso, fatti vedere armato di un atteggiamento più fiducioso, in particolare naturalmente riguardo al problema dell'economia, che ormai non è che occupi il centro della scena, è la scena della informazione americana, è sparito praticamente tutto il resto, i temi, gli stessi temi di politica estera su cui è impegnatissima appunto la consorte di Bill Hillary, e oggi ne parleremo con un collegamento con Pechino, perché è arrivata in Cina Hillary Clinton e sta cominciando una 2 giorni di missione carica di interrogativi, carica di dubbi, forse anche con qualche sorpresa, ma insomma, però tutte queste sono notizie ormai che agli americani non dico non fanno il caldo nel freddo, ma arrivano sicuramente molto dopo gli aggiornamenti sull'economia, che in questo momento sono tutt'altro che buoni. Come sapete, anche le stesse questioni di carattere strategico, no? Il tentativo bipartisan di Barack Obama di connettere anche l'opposizione, la parte minoritaria del congresso, dei repubblicani, alle sue iniziative, di renderli corresponsabili, ma al tempo stesso partecipe, anche questa in fondo sembra un discorso più di accademia. Bisogna vedere come reagiscono i mercati, bisogna vedere come vanno le cose, bisogna vedere se l'America veramente trova la forza di fare questa ripartenza di cui molto si parla, su cui molto si è speso, tantissimo si è investito, ma per adesso i numeri non sembrano corrispondere. Pensate che a Chicago addirittura è nato un club di agenti immobiliari che fanno la fronda, che cominciano a dire che tutte le mosse messe in pratica da Barack Obama vanno nella direzione sbagliata, che non è così che il mercato immobiliare riguadagnerà terreno. Sono tante polemiche attorno a Barack Obama, che tra l'altro è stato in Canada, ha fatto la sua prima missione strategica in Canada, anche questa è stata piuttosto turbolenta, ha trovato anche lì parecchi problemi ad attenderlo. Continua la problematica legata al mercato automobilistico, mentre Geithner sta cercando di dirimere la questione bancaria. Obama si è detto profondamente preoccupato per lo stato di salute del settore automobilistico. automobilistico, l'ha detto proprio nel corso della sua visita in Canada, due giorni dopo che i colossi dell'automobile americana Chrysler e General Motors hanno presentato al governo il loro piano di rilancio, che passa attraverso licenziamenti di massa, praticamente 46.000 posti in meno solo per General Motors, soltanto per General Motors, in un dichiarati a fronte di un governo che promette di salvarne o recuperarne 4 milioni, insomma non sono certo incoraggiamenti alla politica del governo. E dopo aver chiesto altri 20 miliardi di dollari, Barack Obama ha reagito dicendo apriamo un altro fronte, chiamiamolo ristrutturazione. C'è poi una polemica, ma questa è puramente mediatica, ve la riferisco perché poi diventerà un po' un oggetto del discorso nella seconda parte del programma, immediatamente dopo questo spazio, ovvero quando apriremo le pagine di Facebook e daremo voce ai vostri pareri e a una piccola guerra culturale che si sta scatenando in questo momento attorno al congresso, istigata, lanciata, voluta da Eric Holder, il nuovo ministro della giustizia, un afroamericano, il primo afroamericano a sedere su quella poltrona, che ha rilasciato delle dichiarazioni molto dure sulla condizione del dibattito della razza negli Stati Uniti d'America, ben meno concilianti di quelli dello stesso presidente, dello stesso Barack Obama, ben meno concilianti di quel famoso discorso con cui Barack Obama salvò la propria candidatura, anzi costruì addirittura parte della propria discesa verso la Casa Bianca. Ricorderete, era 11 mesi fa, era il marzo del 2008 a Filadelfia, a seguito di storie che ormai sembrano veramente un po' storie, no? Nel senso che appartengono al passato. Ci fu lo scandalo legato alle dichiarazioni incendiarie, provocatorie del reverendo Jeremiah Wright, probabilmente montate ad arte dagli stessi concorrenti nelle primarie di Barack Obama, e Barack Obama decise di difendersi pronunciando un grande discorso a una piccola platea di Filadelfia, una città però simbolo, la città della Costituzione. È un discorso che riallineò tutto il discorso, proprio tutta la questione razza negli Stati Uniti d'America all'altezza dell'anno 2008, invitando tutti a partecipare, utilizzando i suoi stessi principi politici, invitando tutti a essere parte del dibattito, invitando tutti ancora una volta a essere costruttivi sull'argomento. Ora spunta, un anno dopo, una brutta vignetta sul New York Post. Oggi il quotidiano della Grande Mela si è scusato ufficialmente con un editoriale in cui ha riconosciuto che il disegno in questione sì, era controverso, alcuni afroamericani vi avevano visto rappresentato Obama e chi altro, visto che la battuta a fronte di uno scimpanzé, che questa è storia è cronaca degli ultimi giorni del Connecticut, uno scimpanzé è stato ucciso dalla polizia dopo che aveva ferito gravemente la sua padrona. Però in questo disegno c'è un poliziotto davanti al cadavere dell'animale e la battuta che dice è: adesso dovranno trovare un altro per scrivere il piano di stimolo. Quindi facciamo pochi giri di parole, diamo pane al pane, e come forse ammonisce Eric Holder, se siamo razzisti o abbiamo ancora dei sassolini nelle scarpe in questa direzione, tanto vale dirlo piuttosto che fare dei tira e molla, dei flip flop, no? Come si sono prodotti in questi signori del New York Post. Comunque la situazione e il weekend è tutt'altro che sereno nella America all'altezza del primo mese, del mesiversario di Barack Obama. Allora, per parlare di questa che possiamo definire le turbolenze di Obama in questa strana settimana, abbiamo chiamato, come di consueto, Mario Pratero, il corrispondente da New York del Sole 24 Ore. Buongiorno Mario. Buongiorno Stefano. Allora, io ti vorrei solo sottoporre, insomma, qualche argomento ed avere da te una specie di definizione per un weekend, se non tranquillo, almeno di riflessione, di questi guai che si addensano attorno a Obama, o possibili guai. Insomma, Karl Rove nel suo articolo oggi scriveva che bene o male quest'uomo ha fatto un record: in meno di 700 ore di presidenza ha tirato fuori il più grande pacchetto di stimolo economico della storia degli Stati Uniti d'America. Poi però, nonostante nonostante lo sforzo, nonostante il successo, le cose non stanno andando nella direzione giusta, Bill Clinton gli dà qualche frecciata e soprattutto i mercati, anche se Jefferson non è il luogo centrale dell'economia in questa radio, insomma è più il luogo dell'osservazione degli umori delle società, ma insomma anche i mercati stessi stanno dando delle risposte tutt'altro che convincenti. Che succede? Cosa ci puoi spiegare? Ma guarda, succede che alla fine l'offensiva di febbraio, come l'hanno chiamata alcuni, questi 10 giorni di fuoco straordinariamente intensi in cui l'amministrazione Obama ha lanciato un'offensiva appunto su 4 fronti per in qualche modo contrastare le straordinarie difficoltà dell'economia, e cioè sul piano di stimoli di cui tu parlavi, sul fronte delle banche con l'annuncio di Geithner, su quello degli aiuti ai proprietari di case e infine sul fronte dell'auto, Detroit. Quindi 4 fronti aperti, 4 interventi, 4 progetti, una gran quantità di fondi stanziati, ti dirò, da un calcolo che avevo fatto, circa forse addirittura oltre 3.000 miliardi di dollari complessivi. Eppure, al di là delle polemiche sul fronte politico, cioè sul fatto che per esempio Obama non si è esposto in prima persona, forse ha dato quelle dimostrazioni di prudenza e di inesperienza che durante la campagna elettorale gli venivano in qualche modo addebitate, ecco, nonostante le polemiche politiche, quello che conta alla fine è il mercato non ha approvato, il mercato non sta andando bene, la borsa ieri ha chiuso al di sotto del minimo di 6 anni, al di sotto del minimo per questa recessione, qualcuno tema che possa sfondare addirittura quota 7.000, adesso siamo attorno a 7.200, 7.300, quindi andare magari intorno a 6.000 da qui alle prossime 2-3 settimane, e quindi il momento più brutto ancora non l'abbiamo visto. Questa dicotomia è una dicotomia chiara, il mercato è così, sul chi va là, non è convinto che questo piano davvero funzioni fino in fondo. Obama ha ricordato che ci vorrà tempo, che le difficoltà non spariranno da un giorno all'altro, e qui interviene, direi, la dicotomia di fondo tra un uomo come Obama, che abbiamo visto uno stratega che guarda lontano, molto calmo, controllato, che non si lascia mai prendere da fattori impulsivi, e il mercato, che invece per definizione è nervoso, reagisce a breve e pensa sempre così al panico, alle cose più brutte, più belle, quindi reagisce a strappi. Credo che queste due realtà, una Casa Bianca prudente e un mercato nervoso, a un certo punto dovranno trovare il modo di dialogare e di capirsi fra loro. Ecco, per concludere, Mario, in questo senso, in questa prospettiva, anche in questo scenario poco tranquillizzante che hai appena descritto, tutta quella urgenza di trovare i famosi canali per dar vita alla famosa cooperazione bipartisan, tanto caldeggiati e tanto espressi da Obama, anzi rinnovati continuamente, spariscono, impallidiscono un po', no? Diciamo che diventano una questione formale a fronte di una congiuntura che invece è reale, no? Sì, direi di sì. Obama ci ha provato in tutti i modi, alla fine la sua bipartisanship non ha funzionato, lui ha voluto in qualche modo mettere on the record che lui ha teso la mano ai repubblicani, ma lo ha fatto in modo anche lui in fondo partisanship, perché il suo progetto era comunque un progetto che fin dall'inizio si sapeva non sarebbe piaciuto ai repubblicani, ha dovuto pagare molto per ottenere l'appoggio di quei 2 o 3 repubblicani che hanno votato al Senato per il pacchetto di stimoli e che quindi gli hanno consentito di farlo, certo, passare, rinunciando lui stesso a 40 miliardi sul piano dell'educazione, ma direi che la bipartisanship in una democrazia come quella americana la si vede soltanto quando c'è un nemico esterno che attacca, altrimenti sulle questioni domestiche interne prevale inevitabilmente sempre il confronto. Senti, se fosse per te, dove metteresti nei prossimi giorni la bandierina rossa, quella da tener d'occhio per capire se le cose vanno verso il buono o il cattivo tempo? Qual è l'appuntamento da osservare? Ma guarda, sul piano tecnico direi che ormai l'unico indicatore che dobbiamo seguire è la borsa, perché gli aperture economici borsa, non saranno positivi, direi la borsa la settimana prossima, da qui alle prossime 2 settimane, e se la borsa a un certo punto comincerà a scontare che forse da qui a 6 mesi, tieni presente che la borsa ha sempre un ruolo di anticipatore, certo, se la borsa parte perché sconta che fra 6 mesi, 8 mesi, dico, se parte non con lo strappo di giornata ma in modo più continuato, quindi con un rally, lo fa perché vede che tra 6-8 mesi forse succede qualcosa. Ecco, se la borsa continuerà a scendere non avremo segnali positivi, non potremo avere altri programmi. Ormai Obama ha sparato tutte le cartucce che poteva sparare dal punto di vista di piani di stimoli, e quindi lì si dovrà soltanto attendere. Non avremo dei buoni dati economici, perché purtroppo siamo nel pieno della recessione, e quindi avremo degli altri dati negativi per qualche tempo. Va bene, grazie a Mario Platero, che sappiamo in partenza. Insomma, non è un weekend rassicurante e tranquillo, almeno per gli scenari americani e internazionali adesso connessi, quello che si va ad aprire. Annunciato poco fa questo nuovo spunto polemico acceso dal neo ministro della giustizia americano, si chiama Eric Holder, il primo afroamericano, non è certo un novellino alla politica, viene addirittura dalla presidenza Clinton, insomma, però ha occupato una poltrona chiave naturalmente dell'amministrazione Obama, e non ci ha messo molto, dopo che tra l'altro la sua nomina è stata tutt'altro che fluida, che semplice, ha incontrato parecchi ostacoli, parecchie opposizioni, ne parlammo all'epoca, poi si è seduto, ha cominciato a prendere i suoi primi provvedimenti e anche le sue prime posizioni, e ieri ha parlato in modo molto pesante di razza, e noi abbiamo voluto sottoporre a voi questo breve raccontino, che più o meno recita così: Obama, col discorso sulla razza in Filadelfia del marzo 2008, salvò la propria candidatura, affermò la propria presidenzialità e mise sul tavolo del dibattito nazionale il chiarimento sulla questione razziale. Ora il neo ministro della giustizia Holder, primo afroamericano su questa poltrona, rilancia dicendo: quando si arriva a parlare di razza, gli americani sono una nazione di vigliacchi, evitano di parlarne, sfuggono, mantengono vecchi pregiudizi. Le reazioni a queste parole sono state nervose. Obama non si è pronunciato, ma vi chiediamo: secondo voi è vero che l'America avrebbe ancora bisogno di fare i conti con la questione razziale? E poi, qui da noi, sarebbe un discorso degno di essere dibattuto, magari tra una ronda e l'altra, oppure siamo al sicuro dal problema? E voi vi siete, come di consueto, pronunciati, Emiliano? Eh sì, ascoltatori, direi riflessivi, ma anche scoppiettanti, tantissimi messaggi, tantissimi commenti. Nel parallelo con l'Italia, forse addirittura si arriva alla conclusione che in Italia c'è un razzismo ancora maggiore rispetto agli Stati Uniti, o comunque è una fase nuova, no? Gli Stati Uniti hanno una storia più lunga alle spalle, quindi forse lì il discorso è più in fase di conclusione. Beh, comunque io ho sempre molta fiducia negli ascoltatori, come per esempio Omar, che piazza lì una bella citazione dotta che parte da Rigoberta Menchú, guatemalteca, se non sbaglio, premio Nobel per la pace, che dice: il razzismo è l'espressione del cervello umano ridotta ai minimi termini. Poi c'è Bassiro, spero di pronunciarlo bene, che è un ascoltatore di colore, come dice la foto, che spiega: l'America ha fatto un grande passo avanti e non deve guardare indietro. Lorenzo dice: negli States la questione razziale parte dalla schiavitù, poi dalla ghettizzazione, ed è stata molto caldeggiata dai bianchi per decenni, anche nell'ultimo secolo. Sembra un po' una riflessione di Doctorow, dello scrittore americano. Mentre dice: in Italia il vero razzismo non c'era, oggi però chi si ritiene razzista non crede neanche che ciò sia una vergogna. Certo, certo. Luca, non credo che basti l'elezione di un afroamericano, ma sicuramente un enorme balzo avanti. Stefano, la questione razziale mi sa che è aperta un po' ovunque. Mukeba, il problema è risolto anche qua. Vedere i giornali e TV a parità di reato e circostanze, le polemiche e l'indignazione scoppiano quando vengono commessi da immigrati. Maria, in tempi difficili può sempre servire per scaricare sull'altro ciò che è difficile vedere. Marco, nella vittoria presidenziale di Obama, il fatto che non si sia parlato della questione razziale americana è stata una delle chiavi del successo, giusto. Luigi, lo stesso Obama ha ben presente la questione, capelli corti per nascondere eventuali ricci molto afroamericani, cattivissimo, perfido. Massimiliano, noi abbiamo quasi superato la questione Terroni, ora c'è quella dei romeni che almeno sono bianchi come noi, per tutti gli altri siamo ancora allo stadio iniziale per cominciare un vero dibattito. E che stiamo aspettando, il vero dibattito? Andiamo avanti con Sergio, che scrive una mail che secondo me, Stefano, tu apprezzerai molto, perché dice: l'italiano medio è senza dubbio razzista. Negli stati NBA, per esempio, non parte il verso della scimmia come capita negli stadi di calcio italiani. E poi consiglia un brano di George Carlin su Proud to be American. Sì, anche perché se poi ti sente, voglio dire, non c'è la cancellata se ti sente, non lo so, Howard, sì, è come dire, si ferma, mette giù il pallone, io fossi in te col verso della scimmia. Poi c'è Camillo che dice: la mette sul piano dei soldi, insomma, ha centrato la questione, perché non è forse un problema di ricchi, si chiede, cioè i residenti nei paesi avanzati contro poveri, gli immigrati, e di poveri, i lavoratori minacciati dalla concorrenza asiatica contro poverissimi, cioè i nuovi arrivati? Ancora qualcuno per chiudere? Lucina, sulla questione razziale l'America ha fatto grandi progressi, ne sarebbe felice anche il grande Lennon, che purtroppo non è qui a godersi i cambiamenti. Valerio, se nella questione presentata inserite l'elemento ronde, chiaramente vi spianate la strada per una risposta che va: no, non ci vogliamo spianare nessuna strada, Valerio. Ronde oggi approvate in Consiglio dei Ministri, oggi approvate, anche se certo, in versione più soft. Comunque dice: non credo che ciò giovi all'emersione di un pensiero libero da vincoli. Benissimo. Mariano, Obama è figlio di un'America multietnica, ma non solo i neri, gli ispanici e le minoranze hanno votato per l'attuale presidente, anche folle di bianchi. Dario, è una ferita ancora aperta. Obama comunque, secondo me, fa bene a non entrare nel merito con le parole, vedrete che lo farà con i fatti, educando. Intanto noi abbiamo approvato, insomma, questa versione soft delle ronde. Sì, delle ronde, perché alla fine ci possono partecipare soltanto ex agenti di polizia, o prevalentemente ex agenti di polizia o carabinieri, quindi persone che hanno dimestichezza con ordine pubblico, saranno disarmati e dovranno agire in coordinamento con il prefetto. Storia del cartoon, no? Ricordate ben altri famosi cartoon forieri di anche di ci sono stati morti, insomma, per la questione dei cartoon che satirizzavano Maometto e che fecero arrabbiare molto integralisti islamici, però qui siamo per fortuna su un altro livello, però uno che è abituato a prendere fuoco rapidamente, che è il reverendo Al Sharpton, ovvero uno dei massimi agitatori della comunità afroamericana da molti anni a questa parte, un veterano di settore, ha detto che mica basta così con le composte ma anche un po' schizzinose scuse del New York Post, e ha chiamato alla mobilitazione alle 5 del pomeriggio sotto la redazione del New York Post. Vari gruppi, ha detto Al Sharpton, si troveranno per provare a chiarire le cose su come Il giornale dovrebbe veramente scusarsi nei confronti di Barack Obama. Staremo a vedere se nascerà un corrispondente del, anche se in scala naturalmente molto più composta, dell'incidente di qualche tempo fa. Nel frattempo invece ci trasferiamo ben più lontano, ovvero a Shanghai, dove ci aspetta Luca Vinciguerra, il corrispondente del Sole 24 Ore dalla Cina, perché Hillary Clinton è sbarcata in Cina, una missione di 2 giorni densa di argomenti. E leggo proprio l'articolo che Luca ha scritto sul giornale, dice: l'interscambio commerciale Cina-Stati Uniti, i diritti umani, la lotta contro la contraffazione, sicurezza dei prodotti made in China, ambiente, riforma organismi internazionali, Taiwan, cooperazioni militari, il tasso di cambio, poi tante altre cose, si può arrivare a parlare di Tibet, chissà di che cos'altro. Ma io ho un sospetto, prima di tutto però voglio salutare Luca. Ciao Luca, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Senti, ma soprattutto questa visita di Hillary al potere cinese, assai preoccupato, adesso ci spiegherai tu perché, non è alla fin fine o non finirà per essere soprattutto una questione di soldi, una questione di quattrini? Ma sì, è probabile. Direi che le premesse vanno esattamente in questa direzione che tu hai indicato. Diciamo, un'oretta fa, appena arrivata a Pechino, Hillary Clinton ha subito fatto una precisazione importante. Ha detto che i diritti umani sono importanti, è importante parlare di Tibet, è importante parlare del ruolo di Taiwan, ma tutto ciò non può compromettere il dialogo tra Pechino e Washington, soprattutto in questo momento in cui la crisi finanziaria e la crisi economica, conseguenze della crisi finanziaria, stanno mordendo gli Stati Uniti ma anche la Cina. Quindi diciamo che alla luce di questa premessa è assai probabile che si parli soprattutto di soldi. Ecco, prova un po' a spiegare agli ascoltatori come funziona. Ci sono un sacco di soldi cinesi negli Stati Uniti, vero? Beh, diciamo che la Cina in questi ultimi 5 anni, grazie alle sue esportazioni che sono cresciute a ritmo esponenziale, ha incamerato qualcosa come 2.000 miliardi di dollari di riserve valutarie, partendo da zero, anzi addirittura da una posizione negativa. Nel 2002, grosso modo, vado a memoria, la Cina stava in una posizione valutaria negativa. Dal 2003 a oggi si è messa nei propri forzieri 2.000 miliardi di riserve valutarie. Circa un terzo di questa somma, cioè 700 miliardi di dollari, sono stati investiti in questi ultimi anni in titoli del tesoro americano. Perché? Perché innanzitutto perché fino a poco tempo fa il dollaro comunque era una valuta che garantiva un ritorno interessante, intorno al 4-5% annuo di interesse, prima che scoppiasse la crisi e che la Fed fosse costretta a comprimere i tassi verso zero. E poi perché alla fine veniva il dollaro moneta di scambio internazionale, con cui la Cina peraltro compra le materie prime, le energie di cui ha bisogno, veniva considerato un porto sicuro, una valuta sicura, battuta, stampata da un paese a prova di rischio default. Certo. Quindi questi erano i motivi fondamentali che hanno spinto Pechino a comprare i titoli del tesoro americano. Certo. Ora chiaramente tutto questo meccanismo chiaramente va un pochino in crisi, cioè i cinesi in questi ultimi giorni si sono chiesti se il loro investimento sia realmente azzeccato e soprattutto se sia realmente sicuro. Perché è evidente che adesso gli americani, con tutti questi piani che stanno annunciando in questi giorni, o di salvataggio o di rilancio dell'economia da svariate centinaia di miliardi di dollari, rischiano di rinfocolare l'inflazione, non domani ma sicuramente nel giro di 2 o 3 anni, questo sarà una cosa evidente. E quando un paese ha un'inflazione molto alta, la sua valuta scende e quindi il valore relativo dell'investimento cinese nei titoli del tesoro americano rischia di deprezzarsi. Questo è un po'. Comunque, come si comporteranno, come accoglieranno, pensi, Wang Jiabao, Hu Jintao, Hillary Clinton? Sarà comunque un incontro cordiale, viene annunciato in questa direzione? Sicuramente sì. I cinesi, devo dire che hanno l'immagine che stanno anche cercando di dare della Cina in questa fase. Non è quella della Cina che vuole fare l'asso piglia tutto, certo. Perché è vero che oggi la Cina ha i suoi problemi, ne abbiamo scritto, ne abbiamo parlato, no? Sotto il profilo economico, certo. Ma è anche vero che la Cina oggi è un paese ricco di riserve valutarie, come dicevamo poc'anzi, è un paese ricco perché a differenza di tutti gli altri grandi paesi del mondo ha un debito pubblico suo proprio molto molto ridotto. Non vuole fare la figura dell'assopigliatutto, questo sarebbe ovviamente potrebbe danneggiare enormemente l'immagine della Cina, che già non gode di una buona immagine all'estero, soprattutto negli Stati Uniti. Quindi sicuramente sarà un incontro che verrà presentato con toni concilianti. Comunque il presidente Clinton ha lasciato una buona immagine nella mente dei governanti cinesi. Bush per la Cina è stato un presidente molto molto sgradito, sia il primo che il secondo mandato Bush sono stati aspramente contestati dalla Cina per svariati motivi, insomma dall'occupazione dell'Iraq a tutto quello che ne è conseguito. Quindi diciamo che sicuramente i cinesi sono vicini a questa amministrazione, anche se, bisogna dire, nelle file di questa amministrazione democratica ci sono molti personaggi che hanno criticato in questi anni aspramente la Cina, ben più di quanto non abbiano fatto i repubblicani, certo. Soprattutto su certi temi come la sicurezza del Made in China, appunto, o il valore del renminbi, o le politiche concorrenziali cinesi e via discorrendo, insomma. Senti, per concludere, reduce dal passaggio in Corea, ci sono echi attorno a questa parte della missione di Hillary Clinton e più in genere, insomma, è circondata da credibilità la figura, il debutto della figura di Hillary come segretario di Stato? Ma io direi di sì, dalla percezione che io qui della stampa cinese e asiatica assolutamente sì, ripeto, sicuramente magari non è bello da dirsi, ma il marito aveva lasciato una buona impressione e lei comunque certo. Gode di questa rendita, è di fatto una rendita che Hillary si porta dietro, cioè, è innegabile, sì, insomma, certo. È innegabile. Io ricordo, ormai parliamo di tanto tempo fa, appunto, le visite di Stato di Clinton in Asia, anche in Giappone, sempre un grande tributo sia di simpatia che di stima, ecco, è evidente che adesso la moglie godrà di questa rendita di posizione. E quindi è probabile, insomma, che Hillary, tra le altre cose, riesca a convincere anche i cinesi a non liberarsi dei titoli di Stato americani. Beh, insomma, loro bisogna anche dirlo, non è che comprano i titoli di Stato americani perché siano dei filantropi, certo. Lo fanno perché in realtà non hanno alternative oggi, cioè, certo, ancorché certo. Ci sia questo dibattito sul trovare degli impieghi alternativi per queste 2.000 miliardi di riserve valutarie, che cosa compri? Sì, certo. Puoi comprare un po' di materie prime in giro per il mondo, è quello che stanno facendo, no? Certo, il famoso mal di testa di avere troppi soldi, no? Certe volte avere troppi soldi diventa un problema, Molti, molti ringraziamenti a Luca Vinciguerra che ci ha dato un aggiornamento sull'inizio della missione di Hillary in Cina. Poi settimana prossima, inizio delle trasmissioni Jefferson, potremo aggiornare. Questa però non posso fare a meno di leggerla. Arriva da Chris da Parma e chiede un po' a tutti noi, cari ascoltatori, se è previsto l'incontro di Hillary con Paolo. Voi sapete di chi stiamo parlando. Chiedo in regia: è previsto l'incontro di Hillary con Paolo? Non sono informati. Purtroppo abbiamo un buco informativo nella nostra regia e sapete quello che è. Insomma. E dico, non vi possiamo confermare l'incontro fra Hillary e Paolo, ma presto vi daremo, come si dice, maggiori informazioni. Was afraid to fly. He boost public safety and bring down crime. It rewards responsibility, making sure that if you work hard, you won't have to raise a child below the poverty line. But what makes this recovery plan so important isn't just the jobs it will create or the immediate help it provides, it's that we are putting Americans to work doing the work America needs done. Stiamo rimandando l'America a lavorare, vogliamo garantire ai nostri cittadini che se si lavora duramente si deve essere certi di poter offrire ai propri figli una educazione, delle opportunità ben sopra la linea della povertà. Barack Obama è in diretta, sta parlando in questo momento davanti tra l'altro alla Casa Bianca, ma di fronte a un insolito, adesso non che sia una osservazione determinante, ma un insolito sfondo giallo. Gli hanno messo dietro invece che un po' di bandierine o il suo logo, insomma il logo del presidente, gli hanno messo una tenda gialla, un po' inspiegabile, un po' fiorata, dobbiamo informarci sul tendone davanti al quale sta parlando, a 85 sindaci delle principali città americane a cui sta illustrando, naturalmente sta parlando di soldi, non è che stia parlando di belle cose, sta illustrando, cioè sta parlando di buone cose ma di cose altrettanto preoccupanti, i modi per utilizzare al meglio lo stimolo economico che arriverà città per città a sostenere l'economia locale e soprattutto a salvare o creare, l'ha appena ridetto, 3 milioni e mezzo, certe volte dice 3 milioni e mezzo, certe volte dice 4 milioni, ma comunque di posti di lavoro. Voi vi siete scaldati parecchio sulla questione del razzismo, abbiamo ricevuto tante mail, tanti sms, 349-238-6666, in tanti non ne vogliono sentir parlare e precisano che il razzismo non è un discorso che può essere dibattuto e non è una cosa che va generalizzata, ma insomma, ma che ci sono dei criminali in giro e che qualsiasi sia il colore vanno perseguiti, e su questo nessuno credo abbia niente da obiettare, ma vogliamo chiudere il discorso qua? Questa è la domanda. Possiamo anche chiuderlo qua, se il discorso è veramente finito qua e ne siamo sinceramente convinti, si può chiudere qua, oppure invece magari no, magari però se ne riparla, perché ora ci andiamo a occupare di un'altra notizia di estrema attualità, ovvero ciò che sta succedendo in Israele all'indomani delle elezioni. Ci sono le mosse di Peres, assai a lungo riflettute, l'incarico a Netanyahu, le possibili alleanze, ma di tutto questo parliamo con Maria Grazia Enardo, che ci ha accompagnato lungo le elezioni per decodificarle, spiegarle a voi che ci ascoltate e dare magari qualche indicazione in più. Maria Grazia è una ricercatrice di storia internazionale alla Università di Firenze, insegna storia di Israele moderno, e buon pomeriggio Maria Grazia. Buon pomeriggio. Allora, la notizia è, come dire, è un titolo, ovvero Netanyahu ha ricevuto l'incarico. Dopo questo titolo come procediamo? Ha ricevuto l'incarico per fare che tipo, per provare a fare che tipo di governo e con quali prospettive? Il tipo di governo che Netanyahu sicuramente non vuole fare è una coalizione tutta a destra. Non vuole farlo perché sarebbe una coalizione che chiuderebbe Israele in un angolo sulla scena politica internazionale, e anche perché in queste settimane ha ammesso che il suo errore nel suo precedente governo è stato quello di aver fatto una coalizione solo di destra. Detto questo, deve mettere insieme almeno tre partiti grandi, possibilmente anche 4, ma 3 è il minimo, perché nessuno dei due maggiori partiti in questo momento, Kadima e Likud insieme, arriva al magico numero di 61, la maggioranza della Knesset. Probabilmente ha già convinto, non ha fatto fatica a convincere Lieberman, il leader di Israel Beteinu. Farà grandissima fatica a convincere la signora Livni, leader di Kadima, a entrare in questa coalizione a tre. Se poi volesse, come è stato detto in qualche notizia di agenzia poche ore fa, includere anche teoricamente i laburisti, la fatica sarebbe immensa. A fare una grande coalizione. Ma Livni non ha già parlato in termini molto espliciti riguardo a questa possibilità? Tu dici ci si può sempre ripensare? Livni è il leader di un partito che sull'argomento ha idee molto diverse. Kadima è un partito geometricamente di centro, in parte di destra, ex Likud, in parte di sinistra. la componente ex Likud di Kadima vuole andare al governo, ne vede i vantaggi anche in termini concreti. La componente di sinistra ora è veramente di sinistra, perché alle ultime elezioni Kadima ha incamerato molti voti, certo, che venivano, certo, dai laburisti, certo, dalla sinistra di Meretz e così via, e questo elettorato non vuole una coalizione, non dico con Netanyahu, ma soprattutto non la vuole con Lieberman. Certo. Una politica come quella israeliana potrebbe essere veramente governata da una grande coalizione così, così trasversale? Potrebbero riuscire a mettere in piedi un meccanismo di governo reale, o è un'ipotesi veramente, come dire, di transizione? Così una... Credo di no, anche perché questi grandi non hanno idee univoche su come risolvere il problema con la P maiuscola, cioè la questione di un trattato con i palestinesi. Potrebbero, per esasperazione, decidere di fare una bella riforma elettorale verso il bipolarismo, certo, ma ancora a questo non ci siamo arrivati. Oh, è appena uscita un'agenzia, alle 16.20, leader del Likud, Netanyahu di Kadima, Livni, si incontreranno domenica, lo hanno stabilito durante una chiacchierata telefonica, lo informa la notizia della radio militare. In precedenza Netanyahu aveva pubblicamente formulato appunto l'auspicio di formare un governo con Kadima e coi laburisti di Ehud Barak. In sostanza, quindi, come ci possiamo lasciare, Maria Grazia? Come descriveresti lo scenario alle 16.53 di venerdì? Che nella prossima settimana tutte le mosse diventeranno ovvie, c'è anche tempo, soprattutto domani, Shabbat, giorno di riposo in Israele, per ogni forma di pressione indiretta. Sicuramente dagli Stati Uniti arriveranno ogni forma di pressione, sia da parte dell'amministrazione Obama, sia da parte delle organizzazioni ebraiche americane, che sono sempre più preoccupate da questa tendenza di Israele a una politica che non si sentono di condividere. Va bene, grazie Maria Grazia Enardu, quindi sicuramente un appuntamento per la settimana prossima per avere ulteriori aggiornamenti su questo focus che stiamo periodicamente portando avanti su Israele, che ci sembra in questo momento una delle aree di grande interesse, di mutazione, di cambiamento, di rinnovamento degli scenari globali. Oh, Carlo taglia la testa al toro, dice magari l'Italia fosse più razzista. Oh. Magari l'Italia fosse più razzista. Il problema sulla razza, il discorso sulla razza forse dovrebbe anche come dire, passare attraverso, no, una fase culturale, una fase di avvicinamento, una fase di dibattito, una fase di presentazione. Forse quello che sto cercando di dire, se ne dovrebbero occupare anche quelli che hanno più accesso ai mezzi di comunicazione. Ne riparliamo qui a Jefferson 2, l'arte della svolta. Io sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Emiliano Enrico, in regia oggi hanno lavorato a Roma Valerio Rocchetti e a Milano Filippo Aureggi. Per contattarci avete un sacco di modi: la mail jefferson2@radio24.it, il 2 in numero, dal sito di Radio 24 c'è comunque l'accesso automatico alla nostra mail. I nostri due benamati e ormai popolatissimi siti Facebook, vi ricordo, per contattare, per essere in contatto con noi, proposte, domande, osservazioni, qualsiasi cosa, dovete associarvi a redazione Jefferson 2, 2 scritto in parola. Invece, per partecipare ai nostri dibattiti, che poi finiscono qui in trasmissione, per essere amplificati e per rendervi parte della trasmissione, la bacheca si chiama Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself, come l'apposito spazio. Il programma di oggi lo potete sentire in replica a mezzanotte, altrimenti è disponibile in MP3 sul sito della radio, in podcast tra poco, e poi abbiamo una diretta che vi attenderà invece fedelmente dopo un ottimo weekend che vi auguriamo sereno e felice. Lunedì attorno alle 4 qui su Radio 24, ci risentiamo.